questo non ti piace? Vattene a fanculo. Piacerà qualcuno, sì. Mi dico che piacerà qualcuno, a qualcuno che non giudica e sente la musica. Che cazzo sente la musica e non mi mutila, pensando che la sua via sia l'unica. Io mi straccio le corde vocali sulle basi che mi piacciono, non lo faccio. Così puoi mettere il mio disco quando stai in terrazzo. Frega un cazzo di quello che va o quello che si aspettano che faccia. Ho la mia faccia sempre sfatta, non mi metto la cravatta, io vi spacco. Distorciamo la chitarra così suona sporca, sembra morta. Parole dall'oltretomba, fuma una bomba e poi arriva un ululante che ti spacca un timpano. Splendo come il collo di uno zingaro, non lascio che le paure vicano, non ci sto. Mi faccio portare via sopra i pianoforti. I sogni ancora non ce li hanno tolti. Che domani ci svegliamo morti. E io scrivo flusso di coscienza, non mi metto al tavolino. Cercare l'argomento favorito per fare il piatto saporito. Frate, metto il sangue insieme all'empatia, e basta quello per poi farla mia. Brividi e follia, febbre a 45, dentro al corpo c'ho una farmacia. Dio portami via, ma Dio qua non esiste. Per questo scrivo un pezzo triste, la notte senza lei chi resiste. In testa un peso che neanche mai ci ste. Urlo perché quando voglio me ne frego, non voltarti te ne prego. Io voglio i colori, tu stai bene cieco. Parole buone per te non ce le spreco. Butta la tastiera e spegni il cellulare. Infilatelo in culo e smetti di parlare. Smetti di parlare, fallo te se pensi che io faccio male. Scrivi te tutto quello che c'hai dentro, ogni sentimento. Spogliati in mezzo al vento, perché è così che mi sento. Ho giurato a me stesso di non darvi retta, quindi adesso puoi tirarmi in merda. Fumo 5 grammi chiuso in cameretta e mi dico che giudicarmi non ti spetta più. Prima qua non c'eri.